con Claudio Pierantoni per Pasolini, La Verità, in data unica oggi martedì 31 gennaio al Teatro Vittoria qui a Roma. Claudio, benvenuto al Radioteatro Sonda Rossa. Grazie a voi dell'invito. Ci racconti un po' di questo progetto? Questo è un progetto, Pasolini, La Verità, il titolo dice molto. È uno spettacolo di impegno civile, sociale e politico, con un marcato profilo giudiziario. Parla di Pasolini, della mancanza oggi dei suoi occhi, della sua voce, che riuscivano a vedere cose che sarebbero accadute 50 anni dopo, e anche però affronta il caso Pasolini e tutti i punti oscuri ancora da chiarire, che sarebbe ora giudiziariamente da chiarire. E si inserisce un evento e un'iniziativa per la legalità. Dunque parte da Pasolini, ma evidenzia l'importanza della giustizia e della legalità vere, condizio sine qua non per una civiltà democratica. Senti, per quanto riguarda il testo, su cosa hai lavorato, su quali materiali hai lavorato? Io ho lavorato su delle testimonianze giudiziarie, sia scritte che ho potuto visionare, e anche incontri con magistrati, con persone che conoscevano bene Pasolini. Io ho lavorato come attore, come regista, con molti di loro, con gli avvocati che seguono il caso Pasolini, e per cui sono tutte testimonianze. Anzi, la ringrazio della domanda, è molto importante. Oggi in Italia si scrivono cose di cui si sa quasi nulla. Io, prima di scrivere la prima parola, ho l'abitudine di mettere le mani sull'argomento in profondità, quindi ho visionato, ho letto le sentenze, il caso, ho parlato con persone della giustizia e non della giustizia, e dopodiché ho cominciato a scrivere questo testo, che è pesante, nel senso, no, è pesante, è straziante, è doloroso. Avrei preferito non farlo sto spettacolo, lo dico con grande franchezza, perché questo vorrebbe dire che il caso Pasolini sarebbe risolto, sarebbe tutto chiaro. Non è una commemorazione, questo credo sia importante, questa non è una delle tante commemorazioni, seppur lodevoli, di Pasolini. Non è uno spettacolo pasoliniano che cerca la verità, è uno spettacolo di denuncia. Questo è doveroso dirlo. Da questo spettacolo che quadro emerge? Mi aiuti a capire la domanda. Nel senso, ha lavorato a tutta una ricostruzione attraverso, insomma, scritti e un lavoro di testimonianze scritte orali, sì. Scritti orali, e quindi mettendo insieme i tasselli, e qual è il quadro d'insieme? Ah, ho capito, chiedo scusa, non l'avevo capito perfettamente. Sì. Il quadro d'insieme provo a sintetizzare al massimo. Sì. Ci hanno detto un sacco di bugie per 40 anni. All'idroscalo di Ostia non c'era solo Pelosi, sono emersi, questa è la richiesta di riapertura delle indagini e in procura, di cui si aspetta la risposta, ma ora abbiamo i test genetici che chiaramente 40 anni fa non c'erano disponibili. Sono stati effettuati in parte, andrebbero fatti in un altro modo, va bene, ma sono emersi 5 profili genetici. Questa notizia molti non la sanno, perché non viene divulgata, non capisco perché, questo è un problema italiano. 5 profili genetici che non sono quelli appartenenti a Pierpaolo Pasolini e Pelosi. Dunque all'idroscalo c'era altra gente, oltre loro due. E dunque già questo supera e nega la bugia del delitto a sfondo sessuale che per 40 anni hanno proposto a tutti gli italiani. Pasolini non è morto per mano di un ragazzo solo. Pasolini stava scrivendo Petrolio, si stava occupando dell'ENI, di Cefis, delle magagne della Democrazia Cristiana, dei servizi segreti e di tante altre cose. Davvero è possibile pensare che l'abbia ucciso un ragazzetto di 30 kg? Claudio, perché una data unica? Data unica perché sa che non le so rispondere, perché molti ci stanno già chiedendo, abbiamo fatto il tutto esaurito in 2 giorni. Mm-hmm. Il Teatro Vittoria mi ha detto non c'è mai capitato che in 2 giorni abbiamo aperto la prevenzione per due giorni, non in 2 giorni è tutto esaurito. Chiaramente ingresso gratuito e per una scelta mia politica. Mm-hmm. Perché io ho imparato da Pierpaolo Pasolini, non avendolo mai conosciuto, ma l'ho incontrato attraverso le persone che gli sono state molto vicino, il distacco dal danaro. Questo capisco che è una cosa che può suonare ridicola oggi in Italia e nel mondo, ma se fosse ognuno di noi fosse un pochino, non dico tanto, più distaccato dal profitto, le cose andrebbero in un'altra maniera in Italia, completamente. E questo è uno dei primi insegnamenti di Pasolini. Molto scomodo però, molto scomodo. E quindi sì, magari vediamo, la produzione è una produzione molto piccola, e quindi per adesso abbiamo programmato una data unica. E poi magari forse ce ne saranno altre, adesso stiamo a vedere un attimo, e anche delle richieste ce ne sono tantissime, e già ci dicono quando siete a Torino, quando siete a Milano, quando siete a Napoli, per ora non è previsto, però ci penseremo, dopo stanotte ci si ferma un attimo e vediamo se replicare. Ecco Claudio, a questo proposito ci lascia riferimenti internet per questo progetto e per il suo lavoro in generale? Pasolini la verità. Sì. È il titolo. Perfetto. Pasolini la verità, cittadinanza attiva, ho dimenticato, chiedo perdono, cittadinanza attiva promuove lo spettacolo, ha abbracciato subito questo mio progetto. E iniziativa per la legalità, Pasolini la verità. Comunque Pasolini la verità troverete, credo, io non me ne occupo, una pagina Facebook, mail e quant'altro. Benissimo, un abbraccio in bocca al lupo. Io ringrazio voi molto. Alla prossima. Buongiorno.